La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici qui all'ascolto della Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana incentrata in gran parte, come anche quelle che l'hanno preceduta, almeno le ultime due, nelle pagine dei giornali, all'arrivo in Italia di Avatar. Avatar è arrivato, il film di James Cameron, il colossal destinato a battere tutti o quasi tutti i record di incasso nel mondo e chissà anche in Italia. Le premesse ci sono tutte, è nelle sale italiane, in un numero di copie mai visto prima, ben oltre le 900, di cui ben oltre 400 in 3D. E anche questa è una delle rivoluzioni che Avatar si porta dietro, quello di cambiare ancora una volta, di dare la spinta, la spallata decisiva per lo sfondamento di questa tecnologia nei cinema, anche in quelli italiani. Poiché a questa tecnologia si creda fermamente o meno fermamente per quanto riguarda la sua capacità di cambiare anche la narrativa del cinema, beh, questo è un altro paio di maniche. Insomma, parleremo molto di Avatar sotto tutti gli aspetti, anche quello delle numerose citazioni, alcune anche sospette, che il film di James Cameron porta con sé. Ma non dimenticheremo gli altri film in uscita, sono due, uno italiano, La prima cosa bella, l'altro è il film che ci ha regalato un grandissimo Colin Firth e Single Man. Giocheremo insieme, avremo tutte le recensioni in DVD, quindi cominciamo a riassumere tutti i contenuti della puntata nei nostri titoli di testa. Arriva nelle sale il ciclone Avatar, pronto a demolire tutti i record di incasso della storia del cinema. Microfoni aperti per gli ascoltatori che lo hanno già visto. Ma James Cameron non ha inventato tutto. Citazioni letterarie e cinematografiche spuntano qua e là nel suo Colossal. Ne parliamo con i nostri ospiti. E l'Italia risponde con La prima cosa bella di Paolo Virzì, storia affettuosa di una madre e due fratelli fra gli anni 70 e i giorni nostri. Il regista livornese alla Rosa Purpurea. Nei cinema anche A Single Man, l'elegante esordio alla regia dello stilista Tom Ford, con un grande Colin Firth premiato a Venezia per questa interpretazione. Addio a Eric Rohmer, maestro della Nouvelle Vague e cantore dell'amore. Il ricordo del regista attraverso i suoi film in DVD. Insomma, un menù molto ricco quello della Rosa Purpurea di questa settimana, per cui cominciamo subito. Avete sentito, è una puntata speciale anche perché se avete già visto Avatar, se siete già fra le migliaia e migliaia di italiani che nel primo giorno di programmazione, nel giorno di venerdì, hanno visto il film di James Cameron, potete chiamarci all'800 24 00 24. Da questo momento il centralino è aperto per dirci la vostra su questo film, su quanto appunto vi sia piaciuto, piaciuto meno, su quanto per voi sia più o meno rivoluzionario nei contenuti, nelle tecnologie, su quanto il cinema cambierà secondo voi prima e dopo Avatar. E noi cominciamo invece a raccontarvelo, lo abbiamo fatto già con una ghiotta anticipazione la settimana scorsa, ma torniamo un po' a respirare le atmosfere e sentire i contenuti di questo film. Siete su Pandora, signore e signori, non dimenticatelo, ogni secondo di ogni giorno. Se esiste l'inferno, avrete voglia di visitarlo per trovare un po' di pace dopo aver fatto una passeggiata su Pandora. Laggiù, oltre quel recinto, ogni creatura vivente che striscia, vola o si acquatta nel fango vorrà uccidervi e mangiarvi gli occhi come fossero giuggiole. Su Pandora, come avete capito, non è che ci sia il mondo più ospitale che possa capitare in una galassia dell'universo. E che ci fanno gli uomini su Pandora? Naturalmente cercano fonti di energia per la Terra, che nel 2154 dovrebbe essere conciata anche peggio di adesso. I pericoli di Pandora sono tali che gli umani hanno pensato a un vecchio stratagemma: infiltrare un Marines fra i Na'vi, la popolazione indigena di Pandora, introducendo il suo pensiero in un avatar, un corpo esterno creato con il DNA ne ha di quegli umanoidi lunghi e azzurrini. Viene scelto Jake Sullivan, costretto alla sedia a rotelle da una battaglia finita male. Per lui arriva presto il momento di effettuare il primo viaggio su Pandora nel corpo del suo avatar. Sovrintende la tosta scienziata Grace Augustine, al secolo Sigourney Weaver, che descrive così il suo personaggio. Grace is a wonderful Grace è una donna fantastica, complicata, che ha deciso di mettere anima e corpo in questo mondo alieno, invece di cercare le tradizionali soddisfazioni offerte dal mondo umano. Per me è stato affascinante recitare in questo ruolo. Quindi hai pensato di venire quassù nell'ambiente più ostile all'uomo, senza nessuna preparazione, e capire come andava. Ma che ti ha detto il cervello? Forse ero stufo dei dottori che mi dicevano cosa non potevo fare. Valori biometrici buoni. Link 3 pronto. Braccia dentro. Anche le mani. La testa giù. Giù. Rilassati e cerca di svuotare la mente. Non è difficile per te. Va a farti fottere il più presto possibile. Iniziare, Link. Nelle sue sessioni su Pandora, Jake entrerà in contatto con la bellissima indigena Nei Tiri, che gli insegnerà come difendersi in quella natura lussureggiante e selvaggia, ma soprattutto come farsi accettare dal popolo Navi fino a diventare uno di loro e cavalcare gli Ikran, i draghi alati che solcano i cieli di Pandora. Non guardarla negli occhi. Tam tam, Sese. Ikran non è cavallo. Quando è fatto Tsahelu, Ikran volerà con un solo cacciatore per tutta la vita. Per diventare Aronio, cacciatore, devi scegliere tuo Ikran e lui deve scegliere te. Quando? Quando sarai pronto. Insomma, la cosa prenderà una brutta piega quando Jake prenderà un po' troppo a cuore il destino dei Na'vi. Doveva essere solo un infiltrato che portava informazioni ai Marines guidati da un perfido colonnello Miles Quotrich, e invece Jake si è trasformato in un vero guerriero che, come Avatar o come Jake, guiderà la rivolta contro gli invasori umani. Questo un po' per riassumere i temi che ormai sono abbastanza noti e respirare nuovamente le atmosfere di Avatar. 800 24 00 24, se avete già visto il film, noi siamo già in linea con la prima ascoltatrice che ci chiama da Varese, si chiama Mariella. Mariella, com'è andata? Buonasera, prima di tutto complimenti, perché la sua è una delle trasmissioni che preferisco. A me piace moltissimo quando lei parla di cinema, proprio una grandissima competenza, per cui grazie per la trasmissione. Lei mi scioglie, però ci dica come le è sembrato. Allora, io devo dire che stavolta Cameron mi ha deluso, cioè io mi aspettavo di più, perché la storia scontata va bene, perché io ho sempre sostenuto che il Titanic è la storia più scontata che possa esistere, una nave che parte e affonda. Lì c'erano veramente degli elementi straordinari. In Avatar io ho visto un grande spettacolo, è bellissimo da vedere perché ha dei colori magnifici, ha delle ambientazioni insomma molto fantasiose, ecco, cioè non è che mi sia dispiaciuto, però a livello di contenuto, a livello di storia io non ci ho trovato nulla, pochissimo, cioè molto poco. La storia io ti vedo, oppure che sei un bambino, devi crescere, devi capire, però io avrei voluto che Cameron ci avesse mostrato il vantaggio di essere Na'vi, cioè il vantaggio di vivere in sintonia perfetta con la natura, e io questo vantaggio non sono riuscita a coglierlo, forse ero distratta, però non credo, insomma. Non penso Mariella, penso che invece Cameron, anticipo già un pezzo del mio giudizio, poi avremo tempo di parlarne con altri ascoltatori qui all'800 24 00 24, penso che il difetto più grosso di Avatar sia una sceneggiatura di una piattezza notevole, forse è andato a cercare un target di spettatori anche molto molto giovani, ha appiattito la trama, della quale si capisce tutto dal primissimo minuto, buoni, cattivi, sviluppo, fine, e forse invece quello che si salva davvero, come ha detto lei, sono i colori e sono queste ambientazioni meravigliose, di cui fra poco però sentiremo c'è qualcuno sulla cui originalità dubita. Grazie a Mariella da Varese. La Rosa Purpurea. Nuovamente insieme alla Rosa Purpurea stiamo parlando di Avatar, il film che domina, almeno nella presenza, nell'invasione quasi, delle sale cinematografiche italiane questo fine settimana, che ha fatto già registrare tutti esaurito. Si parla addirittura di prenotazioni che non sono disponibili prima di mercoledì, molti cinema che lo programmano in 3D. Ecco, questo per darvi l'idea di quale febbre abbia assalito gli spettatori italiani. Si è parlato di film, di citazioni, di generi. È un film di fantascienza in senso proprio? Cameron non è davvero convinto. Penso che non sia esatto descrivere Avatar come un film di fantascienza, perché immagini immediatamente robot, macchine del tempo o navicelle spaziali. Anche se bisogna compiere un viaggio spaziale per arrivare a Pandora, una volta che siamo lì, viviamo più che altro un'avventura fantastica che si svolge in una lussureggiante foresta pluviale, in un mondo incontaminato, una specie di giardino dell'Eden, ma un giardino dell'Eden con zanne e artigli. Cosa sono, cosa rappresentano questi Na'vi per il regista, questo popolo creato per Avatar? So the Na'vi in my mind represent an aspect of ourselves. I Na'vi per me rappresentano un aspetto di noi stessi, qualcosa che vorremmo essere. Il loro modo di vivere nel mondo, il loro coraggio, la loro bellezza e agilità. È una tale celebrazione del moto e del comportamento umano che forse avevamo in un'altra epoca storica, quando eravamo più vicini alla Terra e avevamo capito la natura in un modo che oggi abbiamo perduto. Quindi i Na'vi sono una sorta di versione migliore di noi e forse oggi ci rendiamo conto che stiamo perdendo qualcosa di noi stessi e che sentiamo di dover recuperare. Per me funziona così e anche nel film funziona così. Quando guardi il film, tu vorresti essere come loro. Vorresti essere loro. James Cameron era più avanti della tecnologia che esisteva in quel momento e ha dovuto aspettare che la tecnologia lo raggiungesse. Come sentiremo più tardi, anche ha dovuto inventarsi alcune alchimie tecnologiche per poter girare questo film. E allora sentiamo un po' il parere di Cameron su questo enorme arco di tempo che è intercorso dalla nascita dell'idea alla realizzazione di Avatar. Well, I started writing the film in 95, wrote a treatment. Avevo già letto il copione nel 1995 e all'epoca avevo già tutti i personaggi, le creature dell'Eden e anche le scenografie che ci sono nel film. Anzi, ce n'erano anche di altre, ma allora era tecnicamente impossibile realizzare l'idea che avevo in mente. Ossia creare alieni umanoidi utilizzando la tecnica della performance capture. Si facevano personaggi come Yoda o gli alieni di Star Trek che abbiamo visto negli ultimi 40 anni. Noi volevamo raggiungere un risultato tecnico specifico e non era ancora possibile. Quindi ho messo letteralmente il progetto in un cassetto e l'ho dimenticato. Poi, circa 4 anni fa, l'ho rispolverato e dopo averlo riletto ho pensato: non è tanto male, potrei farci un bel film e fare finalmente il film che volevo vedere. James Cameron racconta Avatar qui alla Rosa Purpurea. Ricordo ancora, se avete visto il film di James Cameron, se volete parlarcene, se volete darci un vostro parere su quanto sia effettivamente rivoluzionario rispetto al cinema che abbiamo conosciuto fino adesso, è stato piuttosto curioso, devo dire, vedere un servizio che è stato pubblicato dal mensile Focus, con il quale vengono proprio messe in parallelo alcune immagini di Avatar e alcune immagini di un film d'animazione italiano di pochi anni fa, del 2001, qualcuno di voi lo ricorderà, Aida degli alberi, era un film d'animazione rivoluzionario per l'Italia di quegli anni, era costato 9 miliardi di lire, era il primo film italiano che mischiava le animazioni in 3D con quelle bidimensionali, lo aveva firmato un grande maestro dell'animazione italiana come Guido Manuli, il suo art director, diciamo così, era Vittor Togliani. Ebbene, sono davvero sorprendenti le analogie, diciamo così, chiamiamole analogie perché di questo si tratterà pure, in buona fede, fra alcuni scenari, alcuni personaggi, alcune forme, alcuni colori del film di James Cameron, Avatar, e quelle create, o almeno viste, 9 anni fa, anche in tutto il mondo, con i DVD, con Aida degli alberi di Guido Manuli. Noi ne parliamo proprio con Vittor Togliani, come dicevo, art director, scenografo del film Aida degli alberi. Vittor, come hai scoperto queste analogie? Io ho trovato in una libreria di cinema un libro sul making of del film, e io raccolgo sempre queste immagini dei film più importanti, e guardando le immagini dei concept designer che avevano disegnato tutto Avatar mi sono accorto delle analogie. Allora sono andato a rivedere i miei disegni, quelli di Guido e di tutto lo staff, e ho capito che aveva visto senz'altro il nostro film. Le analogie che abbiamo riscontrato riguardano soprattutto proprio l'aspetto delle cromaticità, dei colori dei film, sì, e dei personaggi e dei paesaggi, che sono proprio, come dire, le cose sulle quali hai lavorato tu. Certo, no, allora ti devo dire una cosa, Guido Manuli, che ha inventato la storia, si è ispirato ad Aida, e siccome era la celeste Aida, ha pensato di farla azzurra e un felino. Quindi già il fatto di fare un felino azzurro come il nostro sembra abbastanza insolito, insomma, come scelta, no? Invece la parte della foresta, avevamo scelto di fare una foresta anomala, completamente inventata e psichedelica, con i colori invertiti, i cieli erano rosa, l'erba rosa, viola, eccetera. Invece Cameron ha fatto una foresta anche lui come la nostra, addirittura con dei tronchi in orizzontale come avevamo pensato noi, eccetera, ma ispirandosi, dice lui, ai fondali marini. Quindi sono due scelte parallele, ma se guardi le immagini sono molto simili. Ovviamente l'immaginario in tanti anni di cinema non può che cogliere da una parte e dall'altra, ma vi siete posti, tu e Guido Manuli, l'idea, il sospetto che Cameron abbia potuto vedere questo film nel 2001 quando uscì in Italia? No, io ti dico una cosa, Aida degli alberi è stato poi distribuito credo anche in America, in tutto il mondo, come DVD eccetera. In più noi abbiamo fatto un libro sul making of del film che è stato tradotto dalla Lindau anche in inglese, quindi c'è anche un libro su tutta questa cosa. E quindi insomma la possibilità che Cameron sia entrato in contatto con questo, come con chissà quanti altri film, certo, esiste, certo, insomma. Ecco, sì. Ti chiedo un'ultima cosa, Victor, per uno scenografo, un inventore di immagini di cinema, come sei tu, è più la soddisfazione di essere citati da Cameron, sì, o la rabbia per questo tipo, guarda, di disco? In questo caso sia Guido che io l'abbiamo preso così molto filosoficamente e ci ha fatto anche molto piacere. E quindi insomma, se c'è un pezzo d'Italia dentro Avatar, siamo contenti anche noi. Ok. Grazie a Victor Togliani. Grazie infinite, ciao. Era Victor Togliani, art director di Aida degli Alberi, abbiamo detto, da un servizio di Focus nel quale ci sono analogie abbastanza sorprendenti fra i due film. Noi torniamo ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, se avete già visto Avatar diteci un po' cosa ne pensate. È in linea Enrico da Torino, buonasera Enrico. Buonasera. Allora, suo parere. Se mi permette, io avendo visto anche Aida degli Alberi confermo che era saltato subito agli occhi la somiglianza del, come dire, dei colori, delle scenografie, eccetera. Attenzione, perché due indizi fanno una, tre anzi indizi fanno una prova. Però beh, tutta un'altra cosa, ovviamente. La posizione degli autori, e anch'io sarei, come dire, molto onorato di aver fornito uno spunto eventualmente. Magari potrebbero chiamare Cameron e chiedere se ha voglia di lavorare insieme a loro per il prossimo film. Sarebbe un bene essere per tutto il cinema italiano. Allora Enrico, di Avatar cosa ci dice? Le dico che è fantastico, e fa sognare, e la preoccupazione grossa mentre guardavo il film era: ma dopo questo che cosa mi darà le stesse sensazioni, emozioni, nel senso, film da 500 milioni di dollari, fantastico, eccezionale, come fanno adesso a stupirmi allo stesso modo i prossimi film? Ma io penso che, non so se devo essere io a darle la risposta, ovviamente, ma ci provo, penso che l'animo umano sia tale da sapersi anche reinventare giorno per giorno, e quindi di fronte a un'emozione, diciamo così, più tradizionale, più classica, se l'emozione c'è e se l'emotività del film lo permette, saremo in grado di emozionarci ancora. E poi le emozioni non sono sempre direttamente proporzionali ai soldi spesi e alle tecnologie applicate, anche se in questo caso, come ho detto, abbiamo di vedere quello che funziona meglio in Avatar è proprio questo impianto tecnologico che non viene sbattuto in faccia allo spettatore, ma cerca di coinvolgerlo dentro questo mondo, e questa è anche l'utilizzo del 3D, in questo senso mi è sembrato particolarmente azzeccato. Abbiamo un altro ascoltatore, Marcello da Torino. Marcello è in linea. Sì, pronto, buonasera. Buonasera Marcello. Allora, io non ho ancora visto il film, andrò domani pomeriggio a vederlo, però mi premeva chiedere una cosa a voi che sicuramente siete più informati. Tutte le sale che lo trasmettono, cioè hanno il supporto tecnologico per trasmetterlo, perché naturalmente anche da noi molte sale ormai tutte esaurite, quindi ho dovuto ripiegare sulla sala che ho trovato ancora disponibile. E mi parlava di occhialini e io ho detto, ma non lo so se è sempre allora il solito 3D con gli occhialini. Allora, provo a spiegarle in breve. Il film, dicevo, è uscito in 900 e rotte copie, 400 delle quali sono in 3D e quindi sono da vedere con gli occhialini. Tra l'altro sugli occhialini ci sono tante tecnologie a seconda del cinema che lo propone. Gli occhialini sono sempre o quasi sempre di proprietà del cinema, che li consegna l'entrata e li ritira all'uscita per poterli sterilizzare e riutilizzare, anche se cominciano a vedersi cinema che vendono occhialini personali, in modo che uno, visto che ormai cinema in 3D quasi settimanalmente propone qualcosa di nuovo, uno si porta i suoi occhialini e ha risolto il problema. Quindi questo è un po' l'aspetto fino a questo momento. Quello che sicuramente sta succedendo è che mai nella storia del cinema italiano 400 cinema erano dotati di 3D, e questo è successo proprio per Avatar, proprio per cercare di fare in modo che questo film potesse essere così visto da un numero di persone in 3D, chiaramente da un numero di persone più ampio possibile. Quindi questa è un po' la questione. Lei vada, avrà i suoi occhialini, vedrà il film, ma potrebbe vederlo anche in 2D se il cinema che lo programma lo programma appunto in 2D. È un film che però a questo punto lascerà un'eredità tecnologica nei cinema che ovviamente non potrà che essere sfruttata in futuro. La Rosa Purpurea. Noi insieme alla Rosa Purpurea siamo qui a parlare delle uscite di questa settimana, e su tutte ovviamente c'è Avatar, di cui abbiamo parlato già molto in maniera molto diffusa. Abbiamo ancora ascoltatori da sentire, qualche contributo, ma prima di tutto voglio cominciare a giocare con voi, come da tradizione della Rosa Purpurea, il nostro DVD game. Abbiamo slittato di qualche minuto l'ascolto della prima traccia di un film misterioso che dovrete indovinare per provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Ascoltiamo. La tengo! Ellie, sono bellissime. Ce l'abbiamo fatta. Se avete capito di che film si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci saranno delle altre possibilità. E torniamo ancora ad Avatar. Dicevamo le tecnologie. Un James Cameron che pensa il film non ha ancora gli strumenti per farlo, perché le tecnologie non sono abbastanza avanzate per stargli dietro. A un certo punto decide di mettercisi in proprio, diciamo così, a pensare questa rivoluzione tecnologica. Claudio Pofi è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, dicevamo, Claudio ovviamente il nostro uomo dei DVD e dei Blu-ray, ma anche grande esperto di tecnologie applicate al cinema. Qual è stata la vera invenzione, in un minuto, la vera invenzione di James Cameron per questo film? Beh, si chiama Reality Camera System, è stata inventata da lui, ha iniziato a lavorarci tantissimi anni fa e l'ha prodotta in collaborazione con Sony, e questo direttore della fotografia si chiama Vince Pace. La grande rivoluzione sta nel fatto che è una macchina che è capace di simulare in modo pressoché perfetto il comportamento dell'occhio umano, che agisce in tempo reale, collegato ovviamente al cervello, e tiene sempre a fuoco tutto quanto è di fronte a esso. E quindi la cinepresa di Cameron lavora nello stesso modo. Sono riusciti a trovare la capacità tecnologicamente proprio di adattarsi in tempo reale a tutto ciò che è di fronte a essa. Ebbene Claudio, questo quindi è quello, il valore aggiunto di James Cameron in questo film. Noi andiamo da un altro ascoltatore che è in collegamento da Modena. Matteo, buonasera. Buonasera. Grazie per aver atteso. Allora, anche lei ha visto Avatar? No, io lo sto andando a vedere adesso, sono in auto. Però ho pensato di fare qualche commento. Io ero negli Stati Uniti l'ultima volta dal 95 al 2002 e di 3D ne ho visto poco, a parte a Disneyland e posti del genere, ma come si possono vedere al Gardaland con il 3D e tutto il resto. Quindi il 3D su grande scala, penso che la nascita la stiamo vedendo veramente adesso. Ci sono state tante bolle di questo settore, a partire già dagli anni 50 a Disneyland con questa tecnologia, gli occhialini, ma forse adesso sta arrivando il momento, tramite questa grande impresa di Cameron, di renderla più popolare, anche perché il cinema, così com'è, credo che abbia bisogno di una sesta marcia, una settima marcia, e forse è arrivato il momento di aggiungere qualche valenza in più, qualche cosa in più, e forse è appunto questo momento, insomma. Bene, allora grazie anche a Matteo da Modena. Speriamo che la quinta, la sesta e la settima marcia non si mangino la prima e la seconda, che sono in piedi da qualcosa come 110 anni e tutto sommato ci piacciono molto. Noi chiudiamo a questo punto il racconto di Avatar, e soprattutto lo spazio dedicato ad Avatar, ringraziando anche gli ascoltatori che ci hanno telefonato per dire la loro. E noi torniamo a qualcosa di più intimo, di più attaccato ai sentimenti dell'uomo, a quelli veri, con delle persone in carne e ossa che si muovono sullo schermo, e parliamo di un film film che segna l'esordio alla regia di uno stilista americano come Tom Ford, ma segna anche un esordio di grande eleganza formale. Il film si titola Single Man ed è interpretato da uno straordinario Colin Firth. Questo è forse il nostro vero consiglio della settimana. Lo ha visto per noi Micaela Bellisario. Veramente ti volevo chiamare, è troppo tardi per cambiare idea per stasera. No, certo che no, non ti vedo da una settimana. Ho voglia di una dose. Non lo so, mi dispiace. Bene, perfetto. Ci vediamo stasera. Scappo, farò tardi al lavoro, quindi... Ti chiamo dopo dal college. Bene, d'accordo. Allora più tardi. Ciao, bambina. Ciao, vecchio. George Falconer è un professore universitario inglese gay. Nella Los Angeles degli anni 60, la sua vita scivola lentamente nella depressione dopo la morte del compagno in un incidente d'auto, tanto da arrivare a meditare il suicidio. A Single Man è la cronaca emotiva dell'ultimo giorno di vita di George, ma proprio la giornata degli addii si rivelerà anche la più bella e importante della sua vita. L'incontro con uno studente, Kenny, lo porterà all'improvviso a nuove verità. Sta bene con i capelli così. Le donano. Lei è sempre così bella, fresca, con quel sorriso grazioso. Arpège? Scusi? Davvero fantastico. A Single Man segna il debutto dietro alla macchina da presa di Tom Ford, il geniale designer americano ed ex stilista di Gucci, e la mano della moda si vede chiaramente nel film. Dal punto di vista estetico, la pellicola è raffinatissima. Ogni scena è stata curata nel dettaglio, le luci sono state studiate in modo da seguire l'umore del protagonista, le ambientazioni sono estremamente sofisticate. A Single Man è un'opera di un'eleganza formale maniacale, non c'è nulla che non appaghi l'occhio per tutta la durata del film. I dialoghi sono misurati e ridotti, aleggia il senso della fragilità e del dolore. Il risultato è un film intenso ma distante allo stesso tempo, a volte sconfina poi nel melò quando si tratta di descrivere alcuni incontri gay con bicipiti in bella vista. Il film è stato tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, Un uomo solo, una lettura fatta da Tom Ford a 20 anni, che racconta così il senso del film. È da tanto tempo che volevo fare questo film e ne sono davvero orgoglioso. Mostra un lato di me diverso da quello che conosce la maggior parte della gente. In realtà sono un romantico. La storia vuole ricordare a tutti che le piccole cose della vita sono davvero le più importanti. E questo è il vero senso del film. Strepitosa la bravura di Colin Firth, Coppa Volpi a Venezia proprio per la sua interpretazione, e perfetta Julianne Moore, che interpreta Charlie, l'amica innamorata di sempre. Firth è commovente nella sua interpretazione e così racconta il suo lavoro con i giovani attori protagonisti del film. Io imparo sempre dai altri attori durante il lavoro, piuttosto giovani, perché è una cosa nuova, non hanno imparato tutti questi trucchi, modi di proteggersi, che abitudini cattive che impariamo sulla strada. E questo era A Single Man di Tom Ford nei cinema italiani. Noi a questo punto apriamo la seconda finestra sul DVD Game di questa settimana. Andiamo ad ascoltare un'altra traccia del film misterioso. Allora, quando arrivi lassù, devi cercare di tirare su me. Hai sentito? Sei arrivato al portico? Come? Tutto qui? Ho fatto tutta questa strada solo per restare bloccato su questo ammasso di rocce. Questo era quindi il secondo contributo del nostro DVD Game, la rosa purpurea chiocciola radio24.it, se avete già indovinato. La prima cosa bella, la canzone storica Ricchi e poveri, Nicola Di Bari negli anni 70, ma adesso anche Malika Ayane in questa versione molto suggestiva, inserita nella colonna sonora di La prima cosa bella, che è anche il nuovo film di Paolo Virzì nei cinema italiani da questo fine settimana. Un film che si è detto sfida Avatar, insomma il problema non è quello, semplicemente Virzì si rivolge al pubblico che al Colossal di Cameron non è interessato e che questo film non riuscirà a vederlo. La storia di una famiglia formata da una madre scomoda, troppo bella, vitale, frivola, premurosa, la donna che amava troppo, potremmo definirla, e ha due figli, il primogenito in disagio di fronte alle esuberanze materne e la più piccola che sogna una famiglia unita che forse non avrà mai. Tutto comincia nel 1971, ai bagni pancaldi di Livorno si elegge la mamma più bella dell'estate. Prego, prego, vai, va, venite, venite, fatemi sentire il pubblico caloroso, è una sorpresa speciale, veramente. Proprio quella serata segna l'inizio della disgregazione della famiglia Michelucci. Gli uomini che spogliano Anna con lo sguardo, qualcuno che allunga una mano, il marito che impazzisce di gelosia, il piccolo Bruno che non riesce a guardarla in faccia, e a casa si fanno i conti. Anna si rifugia coi bambini in una pensione a zero stelle, cacciata di casa dal marito. Di lì comincia a peregrinare, andrà in giro affrontando la vita con disperata generosità, in situazioni spesso più grandi di lei, da sordidi triangoli amorosi alla grande illusione del cinema. Insomma, era parecchio difficile perché c'era questa grande cinepresa con le rotine sopra un binario, no? Come di un trenino. E io camminando col vassoio in mano dovevo stare attenta a non intrampolare le cose, le traversine, però senza guardare per terra, se no si capiva. E il dottor Risi mi ha detto bravissima e infatti per domani mi ha dato una battuta da dire. Eternità, spalanca le tue braccia. È un delicato affresco d'epoca questo nuovo film di Paolo Virzì, che si concentra maggiormente sulla definizione dei personaggi, sulla loro intima natura, sui rapporti umani rispetto al suo cinema precedente, di cui però mantiene la freschezza. Da Feri d'Agosto a Tutta la vita davanti, Paolo Virzì aveva sempre raccontato gli italiani guardandoli nel loro contesto sociale, come si guardano un po' le statuine in un presepe. Qui le raccoglie quelle statuine, le guarda da vicino con le loro debolezze che sono sempre pari alla loro forza, ma si vedono di più. Bravi tutti gli attori, Valerio Mastrandrea, materiale sensibile nelle mani del regista, Claudia Pandolfi, della quale ci si chiede perché non la si veda un po' di più al cinema, poi Stefania Sandrelli, Micaela Ramazzotti, tutti parlano un livornese quasi perfetto che ci fa sentire il profumo della città labronica, quasi come un buon piatto di cacciucco. Quella Livorno in cui Paolo Virzì è tornato 12 anni dopo Ovo Sodo, ma con uno spirito diverso, come il regista conferma al microfono di Boris Sollazzo. La prima volta che sono tornato con un film è stato per Ovo Sodo 12 anni fa e ci tornai in punta di piedi, senza cercando di non farmi notare dai livornesi, andai a dormire in hotel, non richiamai gli amici, avevo paura di sciupare quell'incanto che mi aveva fatto venire voglia di fare quel film, avevo paura che rivedendo i livornesi mi sarebbe passata la voglia di fare quel film, e quindi fu una Livorno quasi immaginaria ed elegiaca quella di Ovo Sodo. Non c'è dubbio che invece sarà l'età, sarà il tempi che viviamo. In questo momento ho sentito il bisogno di ritornare lì pienamente, di farmi una casa lì, e quindi c'è qualcosa che ha a che fare proprio con ritrovare qualcosa a cui voler bene in un momento in cui ogni tanto io mi sento straniero in Italia. In questo caso non è certo un inno forse alla famiglia, perché anzi raccontiamo della famiglia anche il suo lato violento, aggressivo, un padre che non riesce a essere un padre, che è troppo immaturo e in balia del proprio sentimento anche ossessivo verso questa giovane, bellissima, imbarazzante moglie. Ma quello che vengono celebrati sono questi legami di affetto viscerali che si stabiliscono tra tre creature nel momento della loro debolezza. Tant'è vero che sono quasi tre bambini, sono Anna con quei due figli negli anni 70 che cerca dimora di notte con questi due cuccioli, è quasi di rincuora con le canzoncine, ma ha bisogno lei stessa per prima di essere rincuorata. Quindi più che un inno alla famiglia è un inno a delle persone fragili che si sono volute tanto bene, che si sono protette con quell'affetto e che lo ritrovano in articulo mortis. La rosa purpurea. Qui dans sa chambre était enclose. Il dort à son aise, elle pense. Elle a décidé qu'elle irait trouver Se n'è andato con eleganza e senza clamore, coerentemente con la sua vita e con il suo cinema. Eric Rohmer era così, sobrio, schivo, poco incline alle chiacchiere. Risparmiava le parole per i dialoghi dei suoi film, fatti di storie lineari, senza scarti, quasi mettesse la sua macchina da presa di fronte alla vita e se ne andasse via, dimenticandola accesa, come in questa scena di Racconto d'estate del 1996. L'acqua era un po' fredda. A me piace. Appena sopportabile. Sta aspettando qualcuno? Per il momento no, non esattamente. Sì, sì, è da qui. La mia roba è laggiù. Beh, la vado a prendere. Era nato a Nancy Jean-Marie Maurice Scherer, un nome che aveva celato dietro lo pseudonimo di Eric Rohmer per tenerlo lontano dai riflettori e dai pettegolezzi. Era il 51 quando insieme a Godard e Rivette fondò i Cahiers du Cinéma, la rivista laboratorio nella quale si entrava critici e si usciva registi. Così fu anche per Rohmer, che nel 59 esordì con lo splendido Il segno del leone, viaggio in una assolata Parigi bohemien fra amori e illusioni giovanili. Sarebbero seguite due dozzine di film, inserite in, soprattutto in tre cicli: Racconti morali, commedie e proverbi e Racconti delle stagioni. Si arriva al 1986, Leone d'Oro al Festival di Venezia con il suo film forse più popolare, Il Raggio Verde. Il mare si sta calmando. Sembra di sì. Stai ancora leggendo Jules Verne? Sì. Deve essere avvincente, non lo lasci un minuto. Ci sia troppo tempo. Ma senti, tutti i gusti sono gusti. Io ho appena riletto 20.000 leghe sotto i mari e l'ho trovato tremendamente noioso. Ma anch'io, sai, anch'io, finché non ho ripreso in mano questa raccolta e non ho letto Il Raggio Verde, lo trovavo barboso, di una noia mortale. Lo credo. Ma poi, dopo aver letto Il Raggio Verde, mi sono accorta che è un libro straordinariamente affascinante. E questo era quindi Il Raggio Verde. Claudio Pofi è di nuovo con noi. Ciao Claudio, raccontaci in un minuto il Rohmer in DVD e Blu-ray. Cosa si può recuperare, cosa si può rivedere? Purtroppo in Blu-ray in alta definizione al momento in Italia non è disponibile assolutamente nulla. Partiamo sicuramente dall'unico cofanetto, tra l'altro molto importante, realizzato da Dolmen, che in 6 DVD racchiude 7 dei suoi film, 7 film preziosi, tra cui quello che hai già citato tu, Il segno del leone, ma c'è anche La collezionista, L'amore il pomeriggio, Il ginocchio di Claire. C'è sicuramente molta attenzione da parte di BIM, che offre diversi suoi lavori, sicuramente Il Raggio Verde, poi Il segno del leone, L'amore il pomeriggio. Sono veramente diversi quelli disponibili in DVD e purtroppo sono altrettanti quelli usciti fuori catalogo che non sono al momento disponibili, tra cui ad esempio Racconto d'autunno. Sono comunque delle opere molto importanti. Io direi che gli appassionati che in questo momento magari sentono un po', insomma, il desiderio di approfondire qualcosa in merito a qualche opera del passato del maestro possono magari rivolgersi a mercati alternativi come ad esempio la Francia. Grazie Claudio, rimani con noi, fra poco le novità in DVD e Blu-ray. Noi invece andiamo a giocare. Terza traccia del DVD Game di questa settimana, ascoltiamo. Delle orme, il beccacino. Vieni beccacino, vieni fuori beccacino. Ah, ti ho visto. Non aver paura beccacino, sono un esploratore della natura, quindi sono un amico di tutta la natura. Se avete indovinato di che film si tratta, e ormai dovrebbe essere abbastanza facile, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it. Il più bravo e veloce del sabato e della domenica riceveranno il Blu-ray di questo film. Noi invece andiamo a vedere chi ha vinto la settimana scorsa. Avevamo sentito queste tracce. Cioè, l'ipotesi sarebbe questa, del resto non è originale. Un borghese, anche se dona la sua fabbrica, in qualsiasi modo agisce, sbaglia. È così? Non voglio rispondere. E questo l'avete sentito, l'avete riconosciuto, la voce riconoscibilissima di Pierpaolo Pasolini. Il film era Teorema, un DVD game abbastanza difficile, fra virgolette, ma molti di voi hanno indovinato. Insomma, ci fa piacere che il popolo della Rosa Purpurea sia anche un popolo di amanti del grande cinema italiano, anche quello più impegnato e più particolare. Teorema, quindi, il DVD della scorsa settimana. Hanno vinto Giampaolo Gallini di Cadeo, provincia di Piacenza, e Maria Moretto di Jesolo, provincia di Venezia. Claudio Pofi, cosa dire di questo DVD Teorema? Allora, distribuito da Medusa Video, il film è di qualità abbastanza buona, diciamo che le immagini palesano a volte un inferiore contrasto, c'è un po' di compressione avvertibile, però sicuramente per un'opera del 68 il risultato è più che dignitoso. E tra l'altro molto interessante, oltre alla traccia originale in italiano, c'è addirittura quella doppiata in inglese, sicuramente da scoprire questo documentario di 24 minuti sui luoghi luoghi dove girò Pasolini con vari interventi, tra cui quello di Guido Mazzon, musicista e cugino del regista. E allora andiamo invece alle novità di questa settimana, partendo con un film di Hayao Miyazaki, prodotto nel 1988, pensate, ma distribuito nelle sale italiane solo l'anno scorso. Si intitolava Il mio vicino Totoro. Quando ero piccola capitava anche a me di vederli. Ma certo, ora li avrete potuti vedere anche voi. E quindi sarebbero spettri? Ma insomma, non sono nulla di così terrificante. Se si mantiene il sorriso, non fanno niente di male. E prima che ce ne si accorga, se ne sono andati via. Chissà, nel sottotetto staranno già discutendo del loro trasferimento. May, se ne scapperanno via tutti. Ma che noia! Però se uno grosso così dovesse apparire, che faresti? May non ha paura. Negli anni 50 le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono col papà a vivere in campagna in attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. La casa è in prossimità di un bosco rigoglioso all'interno del quale le due bimbe scoveranno la tana di spiriti buoni, custodi del verde, tra cui l'enorme Totoro dal fitto pelo grigio a metà strada tra un grosso orso e un felino. Il maestro dell'animazione Hayao Miyazaki realizzò appunto questo capolavoro nell'88, approda nelle sale italiane solo l'anno scorso e grazie alla Lucky Red ora in DVD in questa edizione singolo e doppio disco, tra l'altro entrambe di ottima qualità. In particolare questa special edition a due dischi offre nel secondo disco la visione per intero del film attraverso i bozzetti del regista e immagini dell'epoca. Ci sono tra l'altro immagini dell'epoca di Miyazaki al lavoro. Al momento non è disponibile né prevista un'edizione Blu-ray. Un film recente, I Love Radio Rock, titolo originale The Boat That Rocked, metà anni 60, Swinging London si sveglia, i giovani si sintonizzano con una radio che trasmette dal bel mezzo del mare, scandalizzando i ben pensanti. Lo sai che rischi la prigione venendo qui? Sì, forte. E questa è la mia amica Margaret, mi tiene compagnia. Ciao. Ciao. Questo è il mio amico, il conte. Bene, ciao Margaret. Credi di poter amare un uomo con la barba alla Fu Manchu? No, direi di no. Me la levo. Rimane un no. Non faccio sesso da 3 mesi. Oh mio Dio. Scusa tanto. Veramente è solo da 1 mese. L'ultima volta l'ho fatto da solo. Fatti tuoi. Ho una marca. Ah sì? Sì. Siamo nel 66 in Inghilterra, mentre la BBC trasmette pochissima musica, c'è questa radio che mandava in onda 24 ore al giorno dischi rock e pop da una nave al largo della Gran Bretagna, appunto nell'Essex, a sud-est di Londra, Mare del Nord. Sono 25 milioni di persone che la ascoltano quasi ogni giorno. Attraverso gli occhi di un giovane che si trova a vivere col padre, proprietario della radio privata, seguiamo questa vita folle su questa nave, dimora appunto di folli DJ. Il film arriva dal regista Richard Curtis, già autore di opere come Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale, piena zeppa di musica anni 80, molto molto divertente. Da Universal questo DVD di qualità ottima, notevole livello per entrambe le tracce in Dolby Digital multicanale, in italiano e in inglese. Come extra siamo sicuramente il commento del regista assieme alla produttrice e 11 scene eliminate. Al momento nessun Blu-ray alta definizione. È 1974 quando arriva nelle sale un film che appartiene a tutto tondo al cinema catastrofista americano. Si intitola L'inferno di cristallo e chiaramente parla di un incendio in un grattacielo. Senti, ho già chiamato un'ambulanza, ma è meglio che tu pensi a far scendere al pian terreno quella gente che è lassù con te. Perché? Perché c'è un incendio qui. Credo che sia sotto controllo, ma... Ma allora, perché questa urgenza? Urgenza? Se il fuoco è stato causato da deficienze tecniche dell'impianto, possono scoppiare incendi dappertutto. Doug, credo che tu stia esagerando. Mi dispiace per Will Giddings, avrà tutte le cure del caso. Ma non intendo preoccuparmi per un incendio scoppiato in un magazzino all'81esimo piano, perché non può assolutamente minacciare noi quassù. Non in questo edificio. A San Francisco svetta questa Glass Tower, questo monumentale edificio di 138 piani, all'epoca il più alto del mondo, che innovazione e tecnologia umana sia mai riuscita a costruire. A causa di speculazioni economiche, parte dell'impianto elettrico non è stato realizzato secondo le regole e quindi questo piccolo incendio che divampa all'81esimo piano è in realtà solo il primo di una serie di focolai che prenderanno ad avanzare verso l'ultimo piano dove si sta svolgendo la festa dell'inaugurazione. Film catastrofico del 74 dal regista John Guillermin, che due anni dopo realizzerai King Kong di De Laurentiis con un cast assolutamente stellare. Grazie a Warner arriva in Blu-ray tra l'altro di eccellente qualità video, ci sono numerosi extra tra cui questa ampia retrospettiva sulla lavorazione, approfondimenti sulla sceneggiatura e gli effetti speciali. Unico neo, la traccia audio Dolby Digital in italiano, esattamente come per il precedente DVD, non offre l'originale doppiaggio in italiano del 74. E questo è davvero un peccato. Grazie Claudio Pofi, si chiude qui la puntata della Rosa Purpurea, appuntamento sabato prossimo come sempre alle 18 e dalla prossima settimana una novità per chi ci ascolta in replica la domenica, passiamo alle 15 nel pieno pomeriggio, magari prima che voi andiate al cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.